Friuli nel mondo, 149esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni friulane d'oggi. Il complesso tipico friulano diretto dal maestro Bruno Degano ed il giovane cantante Germano Zampa vi presentano oggi, cari amici radioascoltatori, alcune recenti canzoni friulane piene di brio e di schietta sensibilità. Di Guerrino Savoia ascoltate la canzone dal titolo Perinut. Ue son duc che scrivin canzons, così come sfornas in modons, duc vuelin vinci il festival dal nestri biel chiam regional. Noi e bravure soltanto par vinci, e plui bravure che di convinci. Son duc che bravi in nome di vinci, che convinci e disin così. Su resonin nostinza varia, cal facil destin da chi na chianta. Noi e bravure soltanto par vinci, e plui bravure che di convinci. Ue anduc tacchia fil balon, ed us vuelin ve simpri reson. Duc vuelin vinci e piar di mai, si stici par fin su giornai. Noi e bravure soltan par vinci, e plui bravure che di convinci. Son duc che brami in nome di vinci, che convinci e disin così. Su resonin nostinza varia, cal facil destin da chi na chianta. Noi e bravure soltan par vinci, e plui bravure che di convinci. Nostinza varia, cal facil destin, da chi na chianta. Noi e bravure soltan par vinci, e plui bravure che di convinci, e plui bravure che di convinci. Fantazzine è un ritmo moderato di Bruno Degano su testa di Luigi Mestroni. Fantacine, signorine di prim bal, scolte me, o soito nono, che de vite hai fatto il can. No le danze siel gi crodimi, zovini bas ande vos, grampe svelte il princal capite, par non sta senza moros, non sta la chialla par fin, se ti par di oleggi bel, chiapi lu come calve, tegni lu come calè, tra la la la la. Tra la la la la, tra la la la la, tra la la la la, se co gra Ras in fonce conti al moro bion oppure spelar l'important parure zovide che non sei di mai là nostra lacchia la parfin se ti par di o leggi ben chiapi lu come calvè tegni lu come calè tra la la la la tra la la la la stalacchia la parfì se ti par di o leggi ben chiapi lu come calvè tegni lu come calè tra la la la la tra la la la la tra la la la la tra la la la la la la la la. Questo ritmo lento dal titolo Mal di cuore è stato musicato da Bruno Degano su parole di Guido Michelutti. È una malattia che console manda le vie e fa sbatti tanti il cuore c'è isalmai c'è isalmai che le batti me convinta al sé che non fa tan bassina che non fa cal dueli tan calor c'è tan biel che es mal di cur o hai dit co vuoi finile e no vuoi calami plui ma lampade che frutute il mio cuore temploi che non fa tan basilà che non fa innamora ol che lo trai ol che lo trai non mai di tormentar ma cal dueli tan calor c'è tan biel che il mal di cur. Ed infine dal primo festival di canzoni friulane per bambini il Grillo d'Oro 1965 di San Giovanni al Natisone eccovi le canzoni Sante Lussie e l'Orloi di Sandrino Cimiotti su testo di Lucia Scozziero. Cidine, cidine, su stradi di lune, la sante chiamine tiran il musson, tal geimi il zugato i pai frus, che la spieti plata sot la coltre tal chial da lietu. Tan, tan, tan, e trai la sclope, ue, ue, ue, la pipinute, drin, drin, drin, drin, la biciclette, a ogni frutto il suo contento, tu, tu, al facil treno, e strindule la sconute, la sante c'è buie, c'è fieste domani, la sante c'è buie. c'è fieste domani. Un treno palnini par Mario un balò, la sclope palpicciu calpue di falto, pe frutte che buire ne biele, pipine, pe triste cinise, e un toc di tiarbon. Tan, tan, tan, e tra la sclope, ue, ue, ue, la pipinute, drin, drin, drin, drin, la biciclette, a ogni frutto il suo contento, tu, tu, tu, al facile treno, e strindule la sconute, la sante c'è buine, c'è fieste domani, la sante c'è buine, c'è fieste domani. Me santo le catine, un orloi mi ha regalato, lo avevo dotto le vetrine, mi piaceva lo a comprar, non le davo, ma non mi importa, qual va bene, basta così. Al mieve pur de cove e al mi sburte su a dormir. Che stegnot mi sois veade pulis lagrimis caio o mi erin su tambien l'orloi, il mio amico, calti che senti, al mio di non stava io, soiei voi, e cora squele, e abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Armete Pellizzari.